non solo i nostri grandi classici, abbiamo deciso così. Abbiamo messo qualche cover giusto per ingentilire la cosa. Vai. Cioè, ma si può, io... Non si può. Bene, qualcuno vuole dire qualcosa? Un momento tipico dei nostri concerti, mi mancava. Un momento in cui si spezza qualcosa, un piatto, una corda. Sì. Ma è bello di non avere uno strumento da suonare che posso metterti in imbarazzo. Avanti. Qualcuno nuovo. Potrei rimanere così tutta sera. Vabbè. Te. Magari questo lo facciamo male, eh? Tanta scena, ma poi.